Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. 21 passate da 2 minuti, quasi 3 minuti di questo giovedì 16 maggio 2013. Anche questa sera, anche questo giovedì, in compagnia del sottoscritto Agostino, raffreddatissimo, come potete sentire la mia voce è sempre così cavernosa quasi. Ma siamo qui per fare questo live, questa serata splendida dedicata al blues, con questa band che ci viene a trovare da Genova, ma ne parliamo tra qualche istante. Prima devo salutare il Nonnetto, sapete che è un'istituzione qui a Blu Radio Veneto. Ciao Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Stasera blues. Stasera blues. Stasera, non solo. E che blues, ragazzi, abbiamo sentito delle prove prima. Va bene. Allora, prima di presentare i nostri ospiti, i nostri dati, cioè il numero telefonico qui in studio, lo 049-875-6423. Mentre per i vostri sms vi ricordo il 346-2320-033. Le nostre frequenze 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, se ci ascoltate tramite la radio. E se invece siete in streaming, siete via internet, come si dice, allora siete sintonizzati sul nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it. Lì ci potete ascoltare 24 ore su 24, assolutamente in diretta, in tutto il mondo. Ovviamente lo streaming arriva dappertutto, si sa. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, cioè semplicemente Blu Radio Veneto. Una, l'altra è gestita dal nostro direttore artistico, cioè Alberto Prisco, che salutiamo, e si chiama Blu Radio Veneto Rock Wave. Nel nostro sito, tornando indietro con il discorso, trovate tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, i fatti e quello che capita, ma anche le recensioni, come il caso anche di questi amici che sono venuti a trovare questa sera. Trovate tutte le recensioni anche di dischi che stanno uscendo, qualche novità, qualche disco interessante che secondo il nostro modestissimo punto di vista, cioè della radio, riteniamo opportuno segnalare a chi ci volesse dare un ascolto, insomma, a questi dischi che escono. E poi ancora, Maurizio, hai detto tutto? Manca qualcos'altro? No, hai detto tutto, sì. Vuoi presentarli tu? Cosa devo presentare? quando si presenta il blues, non si presenta, si suona. Buonasera Bobby Soul. Buonasera. Come stai? Stai bene? Bene. Hai fatto buon viaggio da Genova? Sì, buon viaggio, abbiamo attraversato un po' di pioggia forte, sì, nella zona di Verona. Comunque siete passati bene. Guida lui tanto. Guida lui. No. Guido io. Mettiti davanti al microfono così parli anche a te. Ecco, ti porti il microfono davanti, sì, che è il numero 4. Ecco. Allora, Bobby Soul in arte è Alberto, sì, De Benedetti, giusto? Sì. Ti sei portato di battesimo Bobby Soul, poi il mio nome, il mio alias. Ragioniere De Benedetti. Devi sottolineare, caro Agostino, tu non lo sai, però noi siamo colleghi presunti tali, perché lui è un ex bancario. Ah, sì. Sì, io sono bancario, quindi un impiegato di banca. Tu non sei bancario. Stato più saggio di me. Sì, può darsi. Più incosciente. Esatto. E invece alla chitarra avremo Alessio Caorsi. Ciao, benvenuto anche a te, Alessio. Ciao, grazie mille. Ma non ci siamo voluti far mancare nulla, io la chiamo special guest, questa voce femminile che qui a Padova è molto conosciuta, si chiama Alice Violato e la saluto caramente, grazie di aver accettato. Buonasera a tutti, ciao Agostino. L'invito, una cara amica di questa emittente, del sottoscritto ovviamente, lei è una blues woman. Ecco, e fa parte appunto, come sapete, del gruppo The Twisters. Lei è la frontwoman, che se non sbaglio, lei è un'altra artista blues che non ha potuto veramente mancare l'appuntamento di questa sera. Quindi sentiremo anche qualcosa. Noi la ringraziamo per essere venuta. Poi sentiremo qualcosa insieme. Certo. Avete preparato qualcosina. Va bene, Maurizio. Bobby, qua il curriculum è vastissimo. Quante pagine? Un sacco di pagine. Hai visto? Ma che è stato a dare quella roba lì? È così, qualcuno ce l'ha inviato. Hai cominciato all'incirca. Beh, dimmi te da quando hai cominciato, musicalmente parlando, al di là del tuo ex lavoro di bancario, hai deciso: no, voglio fare blues, voglio fare musica. Hai interrotto l'essere bancario e sei diventato musicista. Guarda, l'inizio, proprio quando avevo 14 anni, uscivo da scuola con la cartella sulle spalle, andavo a fare radio anch'io. Bene, è una cosa molto positiva. Quindi la prima cosa era la passione per all'epoca per il funk. Io poi tu ami tutta il funk. La musica nera, ma in particolare l'origine è quella. Perché all'epoca c'era la disco music. Certo. Dalla disco music io ho preso tutta la radice di quello che era, che quello che è anche adesso. E invece per la musica suonata, in una di queste serate che facevamo nei club, dove io facevo il DJ e facevo l'MC. Sì, tu facevi anche DJ, assolutamente io, quello, è importante. Cantavo sopra i dischi, è arrivato un bassista che mi ha detto: perché non provi a cantare dal vivo nella nostra band, che era una band di rhythm and blues, i Mellow Yellow. E allora ho iniziato lì. Poi da lì ho invece conosciuto tutti i personaggi tipici della nicchia, dell'underground genovese, da Bob Quadrelli ad Andrea Ceccon. Erano gli anni dei centri sociali, insomma, dell'esplosione anche della musica indipendente italiana, delle poste, dei concerti liberi, veramente liberi, innanzitutto, soprattutto liberi, sì, in situazioni limite, in tutte le situazioni, e limiti, esatto. E da lì ho cominciato a sognare di poterlo fare veramente, e dopo un po' ho preso questa decisione matta o pazza, come tu hai detto, incosciente di, a 30 anni, perché uno magari lo fa a 20, no? Certo, io a 30 anni, mollo il lavoro in banca. Puoi immaginare la reazione dei tuoi genitori, esattamente. Perché fare blues già all'epoca, già anche adesso, è difficile in Italia, molto difficile. Cosa dici, Bobby? Direi che è molto difficile fare qualunque cosa musicale in genere, ma anche qualunque cosa che uno veramente piace fare. Quindi devi fare molti sacrifici e certe volte fare i conti con il portafoglio. Tira e molla. È dura, però nello stesso tempo fare questo credo che dia una forza e un'energia tale che riesci poi a superare ogni difficoltà, insomma, perché poi sei talmente innamorato di quello che fai che sei disposto a sopportare delle cose inenarrabili, come il mio socio ben sa. Cosa sai, caro socio, di queste cose inenarrabili? Il socio non sa tantissimo, perché come mi piace sottolineare è da molto meno che sono sulla strada, visto che ho quasi 20 anni di meno di Alberto, certo. Quasi 20 anni. Quasi 20 anni, e tu ne hai poco meno di 50, io poco più di 30. No, è così. Comunque, insomma, le difficoltà sicuramente sono tante. Ovviamente quando da ragazzo è tutto più facile, quando poi uno fa la professione, l'incontro sì, anche con la realtà generale della quotidianità, insomma. Però è meraviglioso. Siamo sì, ripagati dalla è passione. È meraviglioso, perché suonare continuamente in qualsiasi situazione è sempre meraviglioso. Sì, suonare è primo di tutte le cose, poi vengono il resto. Sì. Suonare in qualsiasi posto, in qualsiasi situazione, sentire, far sentire, emozionare. Questo è il senso della musica, secondo me. Assolutamente. Sì. Bene, io direi di rompere subito il ghiaccio con questo disco che sei praticamente venuto a presentare. Un disco che è stato fatto completamente dal vivo, vero Bobby? Quasi, nel senso che un'idea che è venuta a un nostro amico di Alessandria, che anche lui è un musicista, un bluesman che gestisce la direzione artistica di un locale di Alessandria. E dato che da 3-4 anni a questa parte praticamente di necessità abbiamo fatto virtù con la chiusura, c'è un discorso che tu hai fatto in un'intervista, perché? Con la chiusura dei locali, a un certo punto, io ho sempre cantato con band, poi a un certo punto ci siamo ritrovati a dover assottigliare al massimo la situazione, addirittura rimanere in due, e abbiamo cominciato però a fare un numero veramente molto grande di concerti, tipo una media di 3-4 alla settimana, anche in posti piccolissimi, a volte in casa, a volte in locali un po' più grossi. Comunque, dopo tanti anni abbiamo pensato forse è il caso di stampare un disco da vendere nei concerti. L'idea era molto basilare all'inizio. Poi invece lui ci ha detto: ma perché non lo fai dal vivo il disco, visto che suoni tanto dal vivo, è inutile fare il dischetto in studio. Per cui l'abbiamo registrato da lui e abbiamo anche usato uno strumento nuovo per poterlo stampare, che è il crowdfunding. Sì, cioè, spieghiamolo. È la raccolta di fondi attraverso internet diretta. Sì. In sostanza vendi prima sulla fiducia il disco alla gente che ti vuol bene, insomma, alla gente che ti segue. Praticamente ti sponsorizza la gente. Ti sponsorizza anche a locali. Anche a locali. Vendi prima, ci sono varie formule, o house concert, o locali. O abbiamo offerto anche delle cene. Insomma, bene. O dei poster di Alessio nudo a cavallo. Non abbiamo venduto neanche uno. Comunque, in sostanza, abbiamo raccolto i soldi prima. E durante questo percorso siamo stati fortunati, e anche questa cosa qua ci ha aperto anche delle possibilità, perché abbiamo anche incontrato un'etichetta che è Riserva Sonora, che si è interessata proprio grazie a questo strumento, si è interessata al disco, ha contribuito anch'essa. In sostanza noi ci siamo ritrovati un CD in mano. Adesso i musicisti ultimamente, come noi certamente, devono sostenere delle spese per fare, certo, un disco prima e poi semmai lo vendono. In questo caso noi ci troviamo un CD in mano completamente spesato, e quindi questa è un'ottima cosa, certo, assolutamente, certo, un'ottima, visto che i tempi che corrono. Beh, un'ottima cosa intanto aver avuto anche solo la fiducia che qualcuno, qualcuno abbia investito su di te senza, certo, sapere qual era l'effettivo contenuto del CD, è già una cosa che chiaramente magari la puoi fare dopo che hai un po' di anni di esperienza sulle spalle e un po' di sei un po', almeno nella mia zona, sei un po' conosciuto. E io credo che sia un sistema interessante anche per altre cose, eh? Sì, per praticamente sviare le case discografiche. Sì, no, sviare, in questo caso vedi attraverso oltrepassarle anche un'etichetta, cioè comunque un'etichetta però alternativa di... non l'etichetta, vabbè, certamente è un'etichetta indipendente, esattamente questo voglio dire, che vive della nostra stessa strada, certo, nel certo, senso certo, di difficoltà anche loro e di cose oggettivamente difficili ma di passione, no, certo, quindi tanto ormai le etichette grosse, a parte che una vecchia carampana come me però insomma poi sostanzialmente magari se ti tingi i capelli magari sì, dici, ma dico platino, però platino sì, sì. Le sopracciglia però? No, così, quelle no, così, quelle così, no, quelle no. Vabbè. Vabbè. Vai. Senti, allora, parliamo di questa canzone che andiamo ad ascoltare tra pochissimo, insieme. Intanto complimenti al figlio di Alessio. Complimenti alla mamma del figlio di Alessio. La salutiamo la mamma. La salutiamo, certo. Si chiama? Serena. Ciao Serena, buon ascolto. Il figlio si chiama? Elia. Elia, ciao Elia. Allora. Allora, questa canzone, dunque, tanto devo dire che nasce soprattutto dalla vena creativa di Alessio stesso, che ha tirato fuori questo giro d'accordi. Poi dopo l'abbiamo registrato nello studio di un amico che si chiama Naim Abid, che è il cantante di un gruppo genovese che sta venendo fuori molto bene, Tua Madre. Lui ci ha offerto questa registrazione come dono, proprio nel suo studio. E abbiamo ai violini anche Roberto Izzo, che è uno del quartetto dei New Quartet, che ha impreziosito questo lavoro. E abbiamo pensato che fosse il pezzo più interessante dei tre bonus track che compongono questo album, che sono tre bonus track in studio, brani inediti, sì, originali, esatto. E quindi abbiamo poi realizzato il video in questione. Una pop song, possiamo dire così, Alessio, sei d'accordo? Sì, direi che il brano sì, più pop nel senso di popular. Sì, popular, sì, sì, sì, ma non ce ne vergogniamo assolutamente. Ah, assolutamente no. E vabbè, allora l'ascoltiamo, poi magari ne parliamo anche del video che si vede su YouTube su questa canzone. Insieme. Insieme in questa stanza in centro, precipitati insieme, facciamo l'amore l'uno con l'altra fino a quando ci conviene, nascosti agli occhi del mondo siamo rimasti insieme, seminando seme insieme, seminando vento insieme, se qualcuno è meglio faccia la sua danza, spazio meglio se qualcuno sa chi è, ora il tuo sorriso riempie questa stanza, diamo spazio meglio se davvero sai cos'è, però i migliori siamo noi che stiamo insieme, seminando bellezza insieme, seminando guai insieme, donna Pasolini sa dei lupi e dei bambini, ha vissuto abbastanza e può ridere di ieri, alleviando i miei pensieri, seminando i suoi sospiri, se qualcuno è meglio faccia la sua danza, diamo spazio a me se davvero sai chi è, riempie questa stanza, Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Dov'è che l'avete registrato questo pezzo? Cioè, come video di parlo, intendo. Il video l'abbiamo registrato in questo posto di Genova che si chiama Villa Bombrini, che è una struttura dell'Ottocento, se non sbaglio, piena di affreschi, dove in questo momento è la sede della Film Commission di Genova. La regista è Erika Montefinese. Quanto ci hai messo a farlo? Tanto? Una mattinata. Vestito a tutto punto, guarda, giacca, cravatta. Io gli ho chiesto esplicitamente di fare una cosa semplice, più semplice e più diretta possibile. Poi c'è un bambino, più semplice di così. Più semplice di così. E poi c'è questo vabbesco che alla fine il bambino trova il vinile, no? Il 45 giri, l'unica piccola idea, se no proprio una cosa descrittiva di noi, dove venisse fuori soprattutto appunto anche la musica. Non volevo una cosa troppo elaborata, ma più che non volerla, non potevamo neanche averla, perché abbiamo deciso di fare questo video, perché poi ti arrivano le occasioni all'ultimo momento. Nel giro di due giorni la decisione, e dopo due giorni abbiamo girato, e dopo un'altra settimana ce l'avevamo pronto. Certo. Sì, Alessio, in questo pezzo suona la elettrica, stasera per necessità sì. La acustica. No, quasi sempre per necessità. Quasi sempre per necessità l'acustica. Sì, qua suoni l'elettrica, cioè un pop trascinato dal blues, e il finale da jam session, come si conviene a un musicista blues. Esatto. L'idea esatto. Dell'arrangiamento è stata tua o di Bobby? O è sì? L'idea dell'arrangiamento in realtà è stata di Massimo Tarozzi, che è il nostro batterista. Ah, ok. E in saletta io ho portato il giro, Bobby ha portato il testo, l'idea melodica cantata, certo. Che è assolutamente sua. Io semplicemente il giro d'accordi, strofe e ritornello, e insieme a Massimo l'abbiamo arrangiato, che era già batterista di Blindo Sbarra, esatto, con Bobby. Sì, sì. E vogliamo citare anche gli altri due della band, certo, che sono no. Andrea Alesso Manush, l'altra chitarra, e Alberto Parodi al basso. Alberto Parodi al basso, benissimo. Il basso è importante in una band blues, è sempre importante, ma secondo me è più importante che noi in altri posti. Cosa dici, Bob? Beh, io sono innamorato del basso perché sono un amante del funk, quindi ecco, appunto, ci stai. Il basso è l'ossatura del funk, quindi però devo dire che Alessio, con questa maniera di suonare la chitarra acustica, in qualche maniera spesso sopperisce adulatore. Stasera sicuramente sicuramente euro, stasera sopperisce, per forza, non posso fare diversamente. Sì, hai fatto quattro dischi con la più importante band italiana di funk, che è il Blindo Sbarra. Quattro ne hai fatti. Dunque, io ne ho fatti in realtà due. Due, gli altri ne hanno inciso quattro. Ho fatto la tournée del secondo disco e ho registrato gli ultimi due. Il primo era un disco indipendente di funk molto grezzo, molto bello, tra l'altro, secondo me. Poi sono entrato nel Blindo Sbarra nel 1996. Ora puoi definirla la più importante, non lo so, ci sono anche i ridilo. Qualcuno, ci sono anche comunque, qui. Però all'epoca era una delle più importanti, possiamo sì, comunque, anche perché sai, di gruppi funk in Italia non ce ne sono tanti. Cioè, c'eravamo noi i ridillo. Appunto, per poco da fare. No. Ce ne sono tanti altri in realtà. Io ho fatto una rete di appassionati, di musicisti appassionati di funk, che si chiama Funk in Italia, con il compianto giornalista fiorentino. Citiamo un momento Ernesto De Pascale, che è uno straordinario cultore di musica. L'uomo più appassionato che io abbia conosciuto, una persona che sapeva sognare con i piedi per terra, però, e quindi riusciva a costruire anche tante cose con la passione, no? Di concrete. E niente, avevamo cercato di tracciare un po' una mappa di quelli che amavano il funk, perché poi io non considero neanche, noi personalmente facciamo del funk, neanche con i Blindo Sbarra si poteva considerare funk puro, diciamo, è gente che ama la black music e poi fa la sua musica. E così abbiamo cercato in tutta Italia, abbiamo capito che c'è gente da Aosta a Catania che fa gente anche molto brava, gente che esce con dischi. C'è una pagina su Facebook di un gruppo che si chiama Funk in Italia, dove ognuno posta le sue cose, quindi è una scena abbastanza attiva. Il problema è che magari il pubblico abituato a sentire questa musica, in particolare noi cerchiamo di spingere chi fa musica originale, quindi fa anche usando anche la lingua italiana, è una cosa un po' strana per il nostro paese, e quindi riuscire a trovare spazi per tutti questi gruppi è un po' difficile, se non hai magari un po' di esperienza come appunto il Ridilo o quella che possiamo avere noi. Certo. Ma forse perché il mercato di adesso propone altro tipo di musica, per quello che fai un po' di fatica? Ma guarda, non so perché io... Perché la musica funk è un po'... Sono gli anni 70-80. Beh, sapevo, il funk poi sopravvive in tutte le musiche, però se vai a vedere, sì, perché vabbè, l'hip hop però, da sempre, che saccheggia proprio il repertorio del funk, ma anche tanto rock usa dei riff funk. Poi anche la questione del genere ora nella musica buona, secondo me, non ha neanche più senso dividere le cose in genere. Diciamo che più che il genere è quanto viene proposto dai grandi media, no? Che certo, sono, adesso non vorrei dire, però sono dei passaggi comprati che sono sempre quei 20 grandi artisti che fanno. Per cui noi subiamo quando andiamo al supermercato o altro sempre la stessa musica, che magari può anche essere buona, però quella... Sempre, continuamente. Quindi che sia funk, metal o altro è molto difficile senza dei grossissimi investimenti aprire qualunque porta, ma grossissimi investimenti. Lo so. Una volta la chiamavamo crossover. Esattamente. Red Hot Chili Pepper. La croce sopra. La croce sopra. Una bella croce quella di Red Hot Chili Pepper per me. Ma insomma, no, quella è una bella croce. Grande. Vi porto i saluti di un amico di Alice, e cioè il suo chitarrista Paolo. Saluti a Paolo. Ciao Paolo. La super blues singer dei The Twisters, e vi saluta anche voi, Paolo Bacco, chitarrista appunto della sua band che vi sta ascoltando. Saluti Paolo. Questo disco, Bobby, è fatto però con questa band, cioè praticamente Blind, Bonobos. Mentre un anno fa tu hai inciso un tuo disco conseguenze del groove da solo, da te. È un disco che si chiama Bobby Soul perché in realtà, sempre per fare necessità e virtù, dato che, come dire, a seconda delle opportunità che io avevo di concerti e roba del genere, assemblavo diverse band. Una delle quali mi ha accompagnato per molti anni, ogni tanto facciamo ancora qualche concerto, che si chiama Le Gastons, che è una band prettamente funky, con tanto di Fender Rhodes e tutto quanto. Un'altra era una band che si è formata solo in quel periodo, che si chiama The Knickers, che aveva delle sonorità un po' più rock, e poi c'erano, diciamo, gli inizi di quello che sarebbe stata il Blind Bonobos, cioè le canzoni acustiche. Quindi un disco mio nome, in realtà fatto con tre band diverse, sono 18 canzoni, egoista, è interminabile. Sì, no, io non potevo chiamarlo Bobby Soul, Le Gastons, The Knickers e lo Sbonobos Boracera, sì, perché non era molto, come dire, fine, un po' complicato. È un brand, Bobby Soul non esiste. Senti, sei venuto qui per suonare, comunque, per cantare. Sì. Cosa sì, ci sì, fai sentire adesso? Ma io direi di iniziare con... Hai la voce calda, pronta? Ma questo lo giudicherete voi. Direi di iniziare con un omaggio, anche un pezzo che nel disco dal vivo, che apre il disco dal vivo, lo facciamo come omaggio perché proprio un paio di settimane fa mi pare che sia morto. Scomparso Richie Evans, perciò facciamo... Io lo ricordo per Going Back to My Roots. Prima ancora di Going Back, certamente, che è un pezzo che tra l'altro facciamo. Beh, anche questo comunque, il pezzo è stato presentato a Woodstock. Esattamente. Freedom è mitica. E l'ascoltiamo e basta. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel just like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. How long? Such a long way from my home. I say freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel just like I'm almost gone. Go! Oh, how long? say freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a motherless child. Yeah, sometimes going down, going down, going down, feeling, feeling like a motherless child. Sometimes I feel, sometimes I feel like a motherless child. Right on, hit me. Took a long way, I'm a long way from my home. Certo non ti risparmi quando sei sul palco, vero? Sono già sudato. Sì, vedo, vedo. Purtroppo i negozi sono chiusi se ti vuoi prendere una canottiera, che ne so. No, c'è sempre i cambi. Sempre, sì, sempre, sì, sempre. Sì, sempre. Scatenato come non mai questa versione di Freedom di Richie Evans, splendida. È la canzone che apre il disco, insomma. Sì, sì, sì. Sì, sì. Parami vicino al microfono, per favore. Eccomi, eccomi. Sì. Come mai questa scelta? Scusa Maurizio. No, no, vai pure. No, volevo, dopo io dico una cosa su Freedom, la sì. colorazione che ha dato lui. Dai, vai, vai pure. Beh, dunque, questa rappresenta lo spirito dell'improvvisazione, secondo me, questa canzone. Perché Richie Evans l'ha suonata praticamente al termine del suo set di Woodstock. Certo. Che lui ha dovuto procrastinare. Sì, l'hanno buttato sul palco. L'hanno buttato sul palco e dovete rimanere sul palco. Esatto, perché gli altri non riuscivano ad arrivare. Esattamente, esattamente. Quindi è stato sul palco più del previsto. Secondo me ha tirato fuori questo cilindro dal coniglio. Sì, no, coniglio dal cilindro. Povero coniglio. E ha improvvisato sull'aria di uno spiritual degli Nero. Anni 20, no? Certo, Sometimes certo. I feel like a motherless child. Esatto. E che è un po' contraddittorio anche tra l'altro, perché è un canto molto profondo, anche molto dolente, no? Dopo lui l'ha risolto, visto che era a Woodstock, con questo invece urlo liberatorio, no? Libertà, no? E quindi come simbolicamente, beh, era ancora vivo chiaramente quando noi abbiamo stampato questo disco, però... Noi Richie Evans diciamo dobbiamo molte cose anche proprio al modo di portare la chitarra, no? Che aveva lui, la ritmica, quindi è un omaggio a lui, perché penso che senza di lui noi non credo che sarebbe stato molto difficile organizzare riuscire in due una cosa del genere senza la sua... Sì, perché tu hai proprio, secondo me, messo in evidenza proprio lo spirito di ricerca innovativa di Richie Evans, la voglia di fare un lunghissimo pezzo per tenere a bada la folla che premeva, che voleva gli altri, e riuscire a tenere a bada una folla talmente grande improvvisando, giustamente, sì. Da un gospel, da un pezzo, da un spiritual, cioè un pezzo che aveva determinati connotati, poi si è sviluppato al massimo allargandolo totalmente. Esattamente, sì, come sì. Si usava giustamente negli anni 70, e c'era uno spirito magari dove potevi anche fare un errore, no? Sì, era potevi fare un errore, ma l'errore faceva parte dell'allargamento del pezzo. Ma quello che contava era il feeling, no? Era il feeling, è il trasporto, il feeling. Il feel. Esattamente. Senti, noi abbiamo un'amica in comune dopo. È caldo, sì, è caldo. Lo facciamo parlare anche la Alice. No, certo, facciamo parlare la Alice. Certo, no, ti stavo dicendo, Alberto, noi abbiamo un'amica in comune che tra l'altro è quella che ci ha dato la possibilità di conoscerti. Antonella. L'Antonella sì. Gucci. Tra l'altro ieri ha compiuto anche gli anni. Sì, le ho fatto pure gli auguri. Bravissimo. Sono ricordato. Anch'io. Magari ci sta ascoltando, la vogliamo salutare. Ma certo, certo. Ciao, ciao Antonella. Antonella. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ah, ciao a tutti. Come stai? Mi sono intrufolata anche qua. Intrufolo ovunque. Hai visto? Sei sempre in mezzo tu, come giovedì, appunto. Ciao, un bacione a tutti, soprattutto a tutti i musicisti bravissimi che avete lì stasera. Beh, io devo dire grazie a te perché ce li hai fatti conoscere, mi hai sottolineato questa band, insomma questo disco che tu lo stai seguendo come ufficio stampa. Ricordiamo, il tuo ufficio stampa si chiama? Ma io mi chiamo Antonella Gucci, mi piace essere, mi piace l'umanità nel lavoro, comunque mi piace, insomma, Antonella Gucci. E quindi se qualcuno sta... Però non facciamo pubblicità, perché stasera, guarda, sono contentissima che tu mi abbia fatto intervenire dopo Freedom, perché è proprio la cosa che a me ha conquistato di questo progetto, proprio quello di cui si parlava, l'improvvisazione, poi l'amore per la musica, quello che ti fa aver voglia di suonare, di confrontarti con altri musicisti. Io ho trovato tutto questo in loro. Ed è la cosa che proprio mi è piaciuta di più in assoluto. Grazie Antonella, ancora tanti auguri, eh? Grazie. Cosa ti è piaciuto oltre a Freedom in questo disco, Antonella? Guarda, no, io sono contenta di essere intervenuta dopo Freedom per quello che rappresenta, però in realtà mi è piaciuto tutto il disco. Io una cosa su cui punterei i riflettori è proprio il fatto che siano riusciti a mettere in musica black i testi in italiano, che per me è una cosa... sì, ci sono magari anche altri esempi, però loro ci sono riusciti mantenendo lo spirito proprio della musica blues e della musica black in generale. Quindi gli vorrei chiedere una cosa che io non gli ho mai chiesto, pur conoscendoli: qual è stata la difficoltà nell'avvicinarsi questa musica con la nostra lingua? Se ci sono state delle difficoltà, magari gli è venuto naturale, non lo so. Intanto ti ringrazio Antonella proprio per questa domanda, perché poi in realtà questo, come penso Alessio sappia, è proprio il lavoro che io ho sempre cercato di fare, nel senso, mi sono sempre detto, se faccio delle cover le faccio delle cose, se faccio dei brani originali devo cercare di renderli credibili e di raccontare anche una storia. Ora la musica ritmata black chiaramente dà dei problemi sulla metrica rispetto, però non è che il rock non ne dia, semplicemente forse c'è più abitudine ormai da tanti anni a sentire dei pezzi rock in italiano, mentre sentire dei pezzi così in italiano, con una voce come può essere anche la mia, un po' rauca, un po' è meno consueto. Però ti dico, è dal tempo dei Blindo Sbarra, che facevano appunto tutti i brani originali, tutti i brani italiani, che io provo a man mano, insomma, a cercare di scrivere dei testi che raccontino un po' una storia anche in maniera semplice e che suonino soprattutto su questo tipo di musica. Quindi è personalmente il mio lavoro. Poi sono anche fortunato ad essere sempre circondato da ottimi musicisti che mi danno una mano su questo. E giù un'altra volta. Giù e vai! Ma sì, quello sicuramente, perché comunque, ecco, stasera avete lì Alberto e Alessio, però insomma sono circondati da un team di musicisti fantastici, che proprio, secondo me, il musicista quando non ha problemi a improvvisare vuol dire che veramente ama la musica e soprattutto la conosce, perché purtroppo ci sono invece tanti musicisti improvvisati che, se gli dici improvvisami un pezzo, vanno nel panico. Eh sì, perché Bobby sa la musica, esatto, quello è importante, lo sa da sempre la musica, cioè, e l'improvvisazione, sì, lui improvvisa, però improvvisa in una certa maniera, sa dove arrivare, chiaramente. Certo, diciamo, infatti, che sappiamo, infatti, quello che stiamo facendo mentre improvvisiamo, dove siamo. Esattamente, non è buttato così, niente sempre, a caso, cioè, tutto, certo, tutto. No, l'improvvisazione è comunque frutto di studio. Di studio, esatto, comunque, non è mica, certo, semplice, è una cosa importante, improvvisare. Non è vero che è semplice, tutti possiamo, non è vero, non si può tutti improvvisare. Improvvisare è una cosa seria. No, si può fare solo quando si è studiato, quando si conosce la materia, allora si può improvvisare. E per me è un po' un metodo di giudizio, anche, no? E come te, che hai sentito centinaia di pezzi, sì, ti sei proprio immedinato dentro nel discorso del blues. È come avere una letteratura, no? Tu estrai dei frammenti dalla tua memoria, no? Quindi cerchi di farlo con gusto. Però ne hai talmente tanta roba che puoi mettere un pezzo piuttosto che un altro e... Se c'è il feeling, funziona, secondo me. Esattamente, ma il coraggio di farlo in italiano, quello è importante. Li contiamo sulle dita di una mano. È difficile, cioè non è così usuale. Quello è il motivo importante. Però io anche penso una cosa. Dimmi. Lo fanno meglio loro in inglese, no? Lo so. Perché dobbiamo farlo? Lo so, chiaramente sì. Chiaramente. Comunque, questo nulla toglie che ci sono tanti gruppi, certo, italiani che fanno roba in inglese ottima e che funzionano, per carità. Sì, non tutti. Ce ne sono qualcuno. Antonella, resti con noi. Io vi lascio continuare a chiacchierare, soprattutto lascerei modo a loro di suonare. Ma loro sono, se vuoi stare in diretta con noi, vuoi, intanto vuoi intervenire, io stai guarda, tu. Se certo, ti fa ma piacere. Io guarda, tanto sai che vi sto ascoltando e se mi viene in mente qualche altra domanda che ancora non sono riuscita a fare a Bobby Alessio, te la scrivo sulla vostra pagina Facebook. Vabbè, come vuoi tu, come vuoi tu, se no se vuoi stare al telefono stai pure. Come vuoi. Ok, un bacione a tutti allora, buona serata e un saluto anche agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Antonella, grazie come sempre, io sono sempre in debito con te. No, quindi... Noi ci sentiamo presto. Ci sentiamo presto. Un bacione, ciao. Un bacione. Ciao. Allora, hai visto... Alberto, bella sorpresa. Sì. L'avevamo già preparata, devo confessarti. Ancora io non me l'aspettavo. Ancora qualche giorno fa. Antonella è una carissima persona per me e gli voglio un bene dell'anima, lei lo sa, e, insomma, per tanti motivi. Un grande affetto veramente per questa grande, grandissima professionista. E nel suo lavoro sta canovista come non mai, perché tu la chiami in qualsiasi momento, lei è sempre disponibile e tu ne sai qualcosa perché sono molto contento di lavorare con lei, con il suo ufficio stampa, quindi insomma ciao Antonella ancora. Bene, adesso ascoltiamo qualcosa dal vivo. Certo, cosa Bobby e Alessio? Beh, visto che mi hai parlato di musica in italiano, facciamo una canzone nostra. Io direi Gli occhi mezzi veri, cosa dici? Sì, ok, perfetto. Stretto io sto assente, mentre fermi la presa. Non mi lasci più lo spazio, così io mi abbandono alla resa. Puoi stare a succhiare tutto quello che vuoi, serpente e gli occhi mezzi veri, io sto qui. Questa però è una canzone del 2011, giusto? Il disco precedente. Sì, Le conseguenze del groove, sì. Questa sì, è una canzone che non fa parte dell'ultima, insomma. No, c'è anche nell'ultima in versione acustica. Tra le, la, credo, l'undicesima traccia. Sì, sì, sì. Non era cantata, giusto? Ecco, sì, perché non mi tornava la cosa. Io avevo sentito solamente questo, non nel disco precedente. Posso dire una cosa, caro Bobby? Sì. Dal blues viscerale del primo del pezzo precedente, viscerale proprio, hai scosso, hai movimentato. Mm-hmm. Sei un blues accogliente in questo secondo me è accogliente da club. Questo è un pezzo più lento. E sono le colorazioni diverse che tu scendere che certo, da subito colore. Sono le colorazioni diverse che fanno parte del tuo modo di far musica. Ti ringrazio. Io la vedo così, la sento così. Cosa ne dici, Alice? Devo dire che c'è una grande intensità, mi dispiace che dalla radio non si possa vedere. C'è una grandissima intensità che comunque si sente dal cantato e dalla chitarra di Alessio. È il grande sudore che scende. Sono veramente, come posso dire, emozionata. Degli quindi... scimioni siamo proprio. No. Io mi rimetto qua nel mio angolo e vi ascolto. No, ma puoi intervenire. No, adesso, poi dopo ne... Anzi, poi... sì. Esatto, la convochiamo. Come mai l'hai costruita così questo pezzo, al di là che fa parte del disco precedente? Come l'hai costruita? Che idea, da dove è partita l'idea di costruirla in questa maniera? Ma questo è un pezzo che ha una storia un po' particolare, perché devi sapere che anche mio fratello canta in un gruppo dark. Bene, questo è interessante, molto interessante. Tutto un altro genere di musica, che si chiama Ma Madame... anche se non è vero, secondo me, sì. C'è sempre un collegamento. Infatti poi ci sarà anche in un pezzo che tra l'altro faremo poi. Bene. Quindi mi aveva chiesto una canzone con un testo quasi invertito, nel senso che è quasi una storia questa da donna, se tu ti fermi sulle parole, no? Perché... E poi lui non l'ha utilizzato, io ho detto, lui è una figura molto più gentile di me, quindi forse in lui questa canzone poteva funzionare. Poi ho detto, anche se io invece sono così scimmiesco, voglio ugualmente cantare questa canzone mettendomi nei panni quasi di una donna che viene quasi costretta in una relazione che non vuole, no? Certo, sì. E ho detto, vediamo se l'effetto è un po' straniante, credo che lo sia, poi dopo quello che viene fuori è... anche come diceva lei l'emozione. Lo suoni con Alessio, con acustica in giro per i locali questo pezzo, oppure lo suono con l'acustico anche con la band, con la band. Questo è un pezzo che facciamo, mi piace farlo sempre, questo mi piace sempre. Che giri fa Alessio, cioè ti dà un input diverso oppure lo segui praticamente la voce al centro e la chitarra dietro, o è il contrario? Ah no, la voce al centro, la chitarra dietro. Ma sì, no, sì, assolutamente. No. Nel senso che comunque anche con l'attrezzino che usiamo, con la stomp box. Si chiama l'attrezzino? Si chiama stomp box. Cioè, praticamente. Se avendo la sedia un po' girevole, ogni tanto. Sì, è problematica. Tanto è sempre problematica nei piedi di Bobby. Ma praticamente è una scatola di legno con un cono dentro, da me costruita, che fa. E quindi praticamente Bobby, oltre a cantare, dà anche il tempo, dà anche il beat di quello che stiamo facendo, e io praticamente insomma fa il batterista praticamente. Insomma, batterista è un parolone. Un parolone. Sono dagli ritmo, insomma. Però sì, comunque. Guarda, sì. Che secondo me suono molto meglio la Stonebox di quanto canto. Io lo so. No, non dire così. Comunque no, sì, poi ora ci sono tipo negli Occhi e Mezzi Veri, a volte lui si appoggia sul riff di chitarra e io lo seguo, diciamo che è altalenante poi chi porta il pezzo. Eccolo qua. Sì, perché siete un duo modulare, vi siete definiti, duo modulare. Cioè, al di là che prima ha spiegato Alberto questo band che si può allargare, si può restringere, ma siete un duo modulare, partite da voi due praticamente. Cioè, in questa situazione, in questo progetto. Poi vi allargate, però vi restringete e vi allargate a seconda delle conseguenze, delle esigenze, dei locali e delle possibilità. Sì, fondamentalmente così. Bene. Facciamo un altro pezzo. Fate un altro pezzo, sì. Noi siamo qua per ascoltarvi. Cosa, Bobby? Io a questo punto farei, se fosse possibile... Noi in genere facciamo due brani attaccati. Sì, nessun problema. Due brani attaccati e poi sul brano che segue convochi che Alice Interviene Alice poi, dai. Questo non è un pezzo che è incluso in nessun disco, però l'abbiamo scoperto non da molto, un pezzo di Trent Reznor, il cantante di Nine Inch Nails. È stato una cosa molto semplice praticamente. mica tanto, un rumorista nato lui, chiaramente. Un genio secondo me, però un rumorista nato. Poi però abbiamo sentito la versione che ne ha fatto Johnny Cash. Ah, adesso ho capito che cos'è allora. I heard myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. In the end, and you could have my empire of dirt. I will let you down. I will make you hurt. Wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts that I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, and I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away. And posso dirlo, allora qui con noi è Alice Violato. Someone who's there. unknown and you're all alone. Flesh and bones by the telephone. Lift up our receiver, I'll make you a believer. Takes a command, spoon it to the test. Things on your chest, you need to confess. Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Your own personal Jesus, not someone to hear your prayers, someone who cares. By the telephone, lift up our receiver, I'll make you a believer. I will believe her, you know I'm a forgiver. Reach out and touch me. Li battiamo le mani, veramente. Vi garantisco che l'hanno provato 10 minuti prima di cominciare la trasmissione una volta sola. Questo è il risultato della non rivalità, ma dell'affetto che ci possono essere. Ma noi musicisti, quelli veri, ci vogliamo bene a prima vista, sempre, perché condividiamo la stessa passione, non si può essere rivali. Quelli rivali sono quelli, secondo me, che non ne fanno che tanto, non ci arrivano. C'è una cosa, perché siete uniti qua, perché c'è una cosa che dobbiamo sottolineare, io mi dovrei alzare in piedi, è l'omaggio a Johnny Cash, all'uomo in nero. Quello è che fonde, che lega tutto quanto. La storia della musica americana. È la storia della musica... Bianca e nera, insomma. America vuol dire Johnny Cash, e questi sono gli American Recording, i famosi dischi che lui ha fatto col grande produttore Jack Ruby, che ha rivisto, trasformato, ricreato certe... Parliamo di Guà, lo stesso, cosa ha detto Bono? La fai meglio di me. C'è poco da fare. Quindi io ho scritto nella recensione, abbiamo scritto che tu lo fai come la personal Jesus di Depeche, lo fai come un blues torrido alla Kenny Dit, riveduto e corretto da Johnny Cash sempre, però. E quello è il discorso. E l'omaggio che tu hai fatto con Johnny Cash assieme a Alessio e assieme a Alice è stato veramente notevole, da emozionato a me, che io amo da sempre poi Johnny Cash, anche ad Agostino, a tutti chi vi ha sentito stasera, che Johnny Cash è immenso anche nel modo di emozionare, e tu hai emozionato grazie a Johnny Cash e grazie alla tua capacità di dire qualcosa. Non è semplice approcciarsi, avvicinarsi a Johnny Cash, è molto difficile. Beh, sai, lui poi, secondo me, ha preso questa canzone, la cosa straordinaria di Johnny Cash, che ha preso questa canzone che... In realtà è una canzone personal Jesus, quasi sarcastica. Sì, molto sarcastica. E lui ha fatto questa trasformazione incredibile, l'ha reso un brano gospel. Esattamente, ma anche il brano precedente. Anche lo stesso Hurt. Hurt, che è un rumorista nato nel senso positivo del termine. Meraviglioso, Trent Reznor, io lo trovo gigantesco. È gigantesco. Beh, certo, però la versione di Johnny Cash, io... È un'altra cosa, è un altro pezzo. È un altro pezzo, assolutamente un altro pezzo. Con lieve intro, è un altro pezzo, è un pezzo di Johnny Cash e basta. stiamo parlando di mostri sacri della musica, comunque Johnny Cash, cioè. Anzi, forse siamo un po' anche, come dire, un po' troppo coraggiosi a tirarlo in ballo. Insomma, senti, 30 secondi, me la fate di nuovo. Personal Jesus? Sì, sì, certo. 1, 2, 3, oh! Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Pazzesco, veramente. Santorella si chiede: ma davvero vi siete conosciuti qui questa sera? Sì, diglielo tu, Alice. Assolutamente sì. No, e sono veramente contenta di essere qui questa sera. Se posso, certo, un piccolo commento su questi due brani. Allora, per me Johnny Cash è ovviamente un grande mito. E questi sono tra i due brani che preferisco fra gli American Recordings che abbiamo citato prima, che più mi emozionano. Devo dire che il confronto è un confronto difficilissimo, perché su una linea melodica così, insomma, basilare, semplice, quello che qui ci vuole è una voce unica e straordinaria. E devo dire che tu, Bobby, hai fatto veramente un'interpretazione mirabile, complimenti. Guarda che si mette a piangere. Sono veramente... No, mi lasci senza parole. No, davvero, grazie, è stato... Grazie. Io, quando ho iniziato a cantare, non so se avete sentito, la mia voce era un po' rotta, perché veramente mi sento emozionata. Io adesso mi lasci te senza parole, assolutamente. No. Comunque, piacere bellissimo. Guarda, io spero davvero che ci troveremo su qualche volentieri. Poi ci ha portato anche i pasticcini, cioè. E il prosecco. E il prosecco. Beh, bevanda tipica veneta. Vabbè, sono io il più emozionato di voi, perché sono riuscito a creare un po' questa situazione. Mi fa veramente molto piacere che ci sia sintonia tra di voi. Grazie, grazie. Veramente fiero e orgoglioso. Ti faccio riposare un po'? Sì. Sì, perché sei accaldato. Prima però vi saluta Paolo dalla provincia di emiliana, e si chiama Paolo, appunto, vi sta ascoltando e dice: se sento, danno davvero una gran carica. Ciao, grazie. Saluta Paolo, i tuoi ospiti, grazie. Saluta anche noi, saluta anche Maurizio, che tanto lo conosci, Paolo, anche tu. Paolo. Sì, certo. Paolo. Quindi ciao Paolo. Adesso ci ascoltiamo la canzone Stringi i denti. Ti va bene? Sì, sì, sì, va bene. Questa, ci vuoi dire due parole? Allora, questo è un pezzo invece tratto da Conseguenze del Groove. Qua invece l'idea dell'arrangiamento, l'idea del pezzo è dell'altro chitarrista, ci tenevo che lo sentisse anche lui, Andrea Manuscio Alesso, che è un nostro veramente grande amico e fratello, che ci dà una mano da sempre con una che grande sta ascoltando magari. Spero di sì. Lui, sai cos'è? Che lui è molto refrattario internet, quindi dato che sta nella provincia di Cuneo, lui, tra l'altro, perché poi siamo anche gente sparsi. Che è sparsi, no? E comunque ci tenevo che sentiste anche i lavori che insomma, con cui lui ci dà una mano, certo, per questo pezzo. E questo è un pezzo che è tratto dall'album precedente, cioè Conseguenza del Groove. Esatto. Stringi i denti. Stringi i denti. Denti, stringi i denti, donna lupo, non piangere più stelle, che fa troppo freddo oggi. Stringi i denti, che bisogna andare avanti. Non ho mai saputo niente, non ti è mai venuto in mente. Stringi i denti, in mezzo al freddo del mattino, che si deve andare avanti senza che ne sai mai niente. Stringi i denti, donna diavolo, lo schianto che mi hai dato quando stavi lì in disparte e guardavi l'orizzonte. Qui ogni sogno è stata un'altra direzione, qui ogni vita che ho vissuto ho fatto male. La fortuna contro vento se n'è andata, quindi la mia mente 17. Stringi i denti, è così che parli chiaro. Quando te ne stai in silenzio, guardi avanti l'orizzonte. Stringi i denti, che si deve andare avanti. Non ho mai saputo niente, non ti è mai venuto in mente che ogni sogno è stato un'altra direzione, che ogni vita che ho vissuto ha fatto male. La fortuna contro vento se n'è andata, quindi la mia mente. Molto bene preparata. È già trascorsa un'ora qui in diretta a Blu Radio Veneto con la musica di questi simpatici amici, soprattutto, ma bravissimi artisti, cioè Bobby Soul, che poi insomma sarebbe il frontman insomma di questa band, quindi sei proprio tutto tu, fai tutto tu, giusto? No, io faccio il vocalist. Mi limito a quello. Alberto De Benedetti, l'amministratore delegato è lui, e Alessio Caorsi. Allora, questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavara sta cercando di regalarvi due ore, sì, avete capito bene, due ore, perché questa sera andremo avanti mezz'oretta in più in onore di questo grande artista che ci viene a trovare da Genova, ma anche perché, ve lo devo dire, per gli appassionati del heavy metal e dell'hard rock, non c'è Renato Ferro, che verrà a fare la trasmissione dopo, quindi approfittiamo della sua bontà, nel senso che non c'è, e facciamo mezz'ora in più di blues, insomma di soul, con questi amici che sono venuti a trovarci questa sera. Ancora un saluto, anzi, prima vi ricordo il nostro numero telefonico con il studio, lo 049 875 6423, mentre gli sms vi ricordo il 346 2320 033. Dicevo, ancora un saluto per tutti, e dice: ciao Ago, un salutone a te, a Maurizio, a Bobby, Alessio e Alice. Ho appena finito una chitarra, sto mangiando in questo momento e vi ringrazio perché mi state davvero regalando una cena fantastica. Ho spento la televisione e mi godo gusto e udito. Ciao Davide. Grande, grandissimo, un caro amico, ovviamente, insomma, l'ascolto da Ovada. Benissimo, benissimo. Allora la zona Antonella. La zona Antonella, sì. Ciao a tutti, buon proseguimento all'ascolto dei programmi. Allora, Maurizio, le tue considerazioni su questo pezzo? Di chi è l'organo Hammond, che è il finale dell'Hammond? Io presumo sia un Hammond, il finale del pezzo. Non è ovviamente un vero Hammond, sì, è una tastiera, comunque il suono dell'Hammond è il tastierista dei Gastons, che è questa band qua, quindi Matteo Menchillo, che ogni tanto si aggiunge anche a noi durante i nostri concerti quando... Perché questa idea di questo suono vintage, bello vintage? Ma perché i Gastons in particolare si rifacevano come sonorità proprio al funk degli anni 70, no? Proprio, non so, faccio qualche nome, Sly and the Family Stone. Ah, ho capito, hai detto uno da niente, Sly and the Family Stone, proprio uno da sempre niente. Gente da niente. Proprio piccolini. Gentina. Piccolini. quindi sì, molto uso dell'Hammond lì in quel... chi mi viene in mente ancora, Gil Scott-Aaron, ecco un altro che mi viene in mente, insomma quelli erano i riferimenti un po' del che avevamo con quel tipo di band, che è una band un pochettino più virata verso il funk, mentre la Blind Bonobos Band ha delle sonorità, essendo due chitarre, sonorità un pochettino più rock. Che difficoltà avete avuto, innanzitutto, che avete preso i pezzi, avete fatto una selezione dei pezzi per mettere nel live? Oppure sì perché avevamo un live di 30 pezzi e... Le selezioni l'hai fatta te? Hai voluto te quei pezzi là? Beh, diciamo c'era stata suggerita da Marcello, che è stato comunque quello che poi ha prodotto il disco, qualche pezzo diverso rispetto a quello. Però erano, noi questo disco l'abbiamo registrato in due sessioni, una pomeridiana a porte chiuse, che è più pulita, e quella serale. Lui aveva scelto un po' più pezzi da porte pulita. Chiuse, quella pulita, perché da musicista. Però io ho preferito metterci un po' più di pezzi dal vivo, per, anche se magari c'era l'errorino qua o la stonatura là, per proprio essere proprio il biglietto da visita di quello che siamo noi, no? Dovesse un live così. E quindi poi alla fine l'abbiamo scelti, direi io Alessio, sono i pezzi, insomma. Sì. Lui dice sì. Io dico di sì. È stata un'esperienza importante. Un disco live non è un disco semplice da fare, secondo me. Disco live, qualcuno fa il disco live per dire: sono arrivato qua, faccio il disco live per farmi sentire ancora meglio. Ma tu non avevi bisogno di farti sentire ancora meglio. No, io volevo solo che la gente, che insomma, volevo solo che fosse veramente la presentazione dei nostri live, biglietto da visita, per poterne fare tanti altri magari in altri. Quindi comunque questo siamo noi, così, perché spesso c'è, cioè, anche le conseguenze del groove, ci sono tanti musicisti, c'è un suono, poi c'è un altro suono, ho detto questo è il suono che sentite comunque, e direi che lo sentite sia in acustico ma anche con la band. Poi alla fine l'ossatura è quella, quindi il suono è questo qua, se vi piace è questo, insomma. Un suono libertario, deve essere libertario, libertario, 100%. Libertario. Senti, volevo chiederti a livello personale, come penso interessi anche alla gente, ma le scelte di queste canzoni sono dovute a dei fattori tuoi, delle passioni tue inerenti a qualche ricordo di questi titoli che hai scelto, oppure sono casuali? Ma io in genere quando scegli una canzone, scelgo una canzone perché mi viene da dire qualcosa a qualcuno. È come quando la scrivo io una canzone, certo. No? Quindi quando la scelgo è perché quella canzone lì mi ricorda magari una situazione, una persona, e alla quale magari non riuscirei a dire le cose direttamente, e quindi fai la canzone. Allora le canto la canzone. E lo stesso motivo vale per quando scrivi tu le tue canzoni? Ma sì, direi di sì. Sono biografiche, insomma. Sono io non riesco ad avere questo sguardo, a essere un cantautore, no? Quindi uno sguardo all'esterno, no? La società non mi reputo all'altezza, sinceramente. Allora posso raccontare solo quello che vivo direttamente io. Più o meno, sì, più o meno le canzoni sono... Perché tu col telefonino ti vieni in mente, registri e poi la metti... Sì, ma adesso ho sviluppato dei sofisticati sistemi di memoria interiore. Sì, sì, sì. Complimenti. Più o meno. No, mi viene in mente, in genere mi viene in mente una frase che mi piace, magari una frase che mi piace, è come se volasse nell'aria, mi viene in mente, io la e poi da lì poi ci costruisco, insomma, un testo. In genere parto da quello che voglio dire, e poi dopo la melodia viene dopo. Certo. Prima le parole. Fra i tuoi amici genovesi hai citato Andrea Ceccon. Sì. E perché le voci atroci. Esatto, interessa sapere delle voci atroci. Molto mi interessa sapere. Dunque, le voci atroci sono un progetto che risale ai primi anni 90. Un progetto molto interessante. Sì. Fuori nel senso positivo del termine. Ma molto fuori. Molto fuori. No, anche nel senso negativo. Molto fuori. Era un quintetto a cappella, fondamentalmente, di... Andrea Ceccone è un attore musicista, tra l'altro sì. Musicista di grandissima caratura, uno da conservatorio, Zappiano nell'impostazione. Bello questo Zappiano. Zappiano, assolutamente Zappiano, quindi è una, era l'armonizzazione di cinque voci, devo dire anche abbastanza ineducate, che musicalmente, che producevano dei suoni, dei timbri, non dei falsetti vari, dei timbri vari, che armonizzati con delle partiture anche piuttosto complicate creavano un inequivocabile effetto comico, e ci sono stati definiti il quartetto Cetra in acido, tanto per farti capire. Quello dice già tutto, quello dice già tutto. È una cosa, è stato un progetto molto bello. Comunque siamo andati anche all'estero, andati in Germania, in Francia, che credo che adesso Andrea fa l'attore adesso lo vedi a Colorado Caffè in TV, fa il comico. A me dispiace molto che lui abbia un po' lasciato da parte la musica, perché è bravo come comico, ma secondo me è bravo come musicista, è ancora più bravo, è ancora più bravo, ecco. Mitica Esmeralda, scrive qualcuno delle voci atroci. L'Esmeralda Sassa era una componente, che poi le voci atroci intanto io non ci sono più, ma si riuniscono, so che qualche un concerto all'anno lo concedono e quindi è una reliquia quasi, a sapere che lo fanno andarlo a vedere, insomma. So può darsi, io poi mi auguro che Andrea poi decida un giorno di riprenderlo in mano questo progetto, insomma. Ti richiamerà senz'altro. Non lo so questo, guarda. Questo ho qualche dubbio. Va bene, invece Alessio, io voglio chiedere a te, che di solito noi la facciamo sempre questa domanda, Alice già lo sa, è la famosa conoscenza dei tuoi gusti musicali. Se ipoteticamente te ne vai in un'isola deserta, cosa ti porteresti con te? Assolutamente tutta la discografia di Jimi Hendrix. Cioè, proprio e di basta, brutto e basta, basta, basta, basta. Beh, sei hendrixiano allora, assolutamente hendrixiano. Se dovessi portarmene uno solo, se dove, Band of Gypsy. È un live, è un brevissimo periodo dell'esperienza di Hendrix senza l'experience, secondo me è il momento più bello. Ma è solo lui? Ma sì, se no poi vabbè, svariati. Ne hai tre, dai. Ne posso portare tre? E allora tre dischi di Hendrix, no, volendo. va che dire, scegliamo tre momenti. Allora, Miles Davis, Kind of Blue, Jimi Hendrix, Band of Gypsy e Les Tres Hombres degli ZZ Top. Ah, come mai ZZ Top? Perché posso dirti, Alessio, è la prima volta in 15 anni, in 12 anni che facciamo Rock Wave e stasera Blue Time Live, chiediamo ai musicisti che citato i ZZ Top. Perché, come mai? Fandango per esempio. Sì, Fandango, un classico. E i ZZ Top, perché li adoro, assolutamente sono, secondo me, un buon modo, se si può dire, bianco di fare blues, e danno una carica bestiale, sono un trio formidabile. E sia dal vivo che in studio, barba lunga è veramente tiro. Quindi ho pensato, cosa fai? Il momento di così, no? Kind of Blue, quindi il momento di relax, il momento dell'amore per Jimi Hendrix e il momento invece del divertimento, ZZ Top, assolutamente. Bene. Ho visto un cenno di consenso da parte di Alice, vero? Sì. Piacciono molto anche a te, vero? Sì, sì, assolutamente sì. Tres Hombres, tanto per citare Tres Hombres, Fandango. Sì, sì, anche Fandango non è male, però Tres Hombres. Tres Hombres, dei pezzi incredibili. Tocca a te, Bobby, dai. Tre dischi, Beh, direi Pieces of a Man di Gisco Teron. Non conosco. Gisco Teron. Vabbè, sarebbe lungo a spiegare. È un poeta afroamericano che ha fatto la musica tra il jazz e il funk, che è scomparso tra l'altro 2 anni fa, lasciando un ultimo disco registrato dall'entourage dei Massive Attack a Londra. Ecco qui. E dove ha fatto svariate cover di blues come Devil and Me di Robert Johnson. Lui ha preso in questo ultimo disco ha preso dei pezzi dei classici del blues, dove ha fatto una postilla con delle sue poesie, con questa voce molto profonda che aveva. Comunque, qualcosa di Gisco Teron me lo porterei. Fresh the Sly and the Family Stone, che secondo me adesso disco. Qui me li hai citati, Fresh, adesso Sly and the Family fuori Stone. Come e beh, c'è un live ad Apollo di James Brown, bisogna portarsi. Qualcuno ha scritto. Lui ha portato tre, a parte Jimi Hendrix ha portato due. Io devo portarli tutte e tre, sì, afroamericani. Perché qualcuno ha scritto. Devo compensare. Il nostro James Brown italiano, qualcuno ha scritto. Tu cosa dici? Qualcuno che ha scritto questo? Secondo me è una bella. Ma quello è Paolone Ferrari, Torino, lo pago. Lo paghi. Lo paghi. No, a parte di grande, un ottimo giornalista musicale. Sì, scrive per l'umore. Mi pareva che lui scrivesse soprattutto di reggae. Lui... Sì, sì, lui viene proprio dal mondo del reggae, ma mi conosce, ci conosciamo da tanti anni, perché io, essendo un po' trasversale, un po' il prezzemolino di Genova, che partecipava un po' a tutti i progetti, ero anche in un'altra band che si chiama Senza Show, una band dialettale genovese, che hanno la loro radice nel ragamuffin. Ecco, c'è un motivo allora. Esatto. Lo conosci. Benissimo. Star of the show, superstar, heartbreaking, James Brown. Ecco. Eccolo. Cioè, presentatore. Che cosa si faceva il presentatore? Una cosa incredibile. Lui sempre gonfiava. Senti, ti devo gonfiare in qualche modo questa presentazione della prossima canzone che farai dal vivo oppure no? No. Scegliamo cosa fare, magari. Scegli te. Scegli tu. Facciamo una cosa tranquilla. Facciamo Petrillisca. Quella pensavamo di farla dopo. Dopo, va bene. Prima pensavo di fare questa. Anche. Dopo. Questa qua che si chiama Non è un Doubt Death. Ah, l'ultima, quella che chiude il disco. Scrivere me sopra i muri, sentimenti senza età, senza doppi sensi oscuri. Scrive che le piacerà e non c'è un prezzo da pagare. Ti devi solo abbandonare. Non c'è un prezzo da pagare. In cambio non è un doubt test, non voglio niente in cambio, non è un doubt test, non voglio niente in cambio. Dappertutto tutti sanno e ridono della donna sopra il letto, cui non importa, non importa il possesso, e non c'è un prezzo da pagare. Ti devi solo abbandonare. Dice, ora lasciati un po' andare. Non è un doubt test, non voglio niente in cambio. Non è un doubt test, non voglio niente in cambio. Non è un doubt test, doubt test, non voglio niente in cambio. Non è un doubt test. Sentimenti senza età, senza rabbia né pudore. Scrive che le piacerà. Fino all'ultima goccia. Bravissimo. No, c'era la finale. C'era la finale adesso. Mi ha fregato. Mi ha fregato. Pensavo finisse così. Alice, cosa ne pensi di questa canzone? Ti vedevo lì, fermali. No, sto ascoltando, ovviamente la musica, l'accompagnamento, che è molto bello, ma anche il testo e anche i testi che abbiamo ascoltato prima, devo dire, sono rimasta colpita dalla semplicità dei termini che hai utilizzato, però anche molto efficaci. Ti ringrazio, Alice. Molto efficaci. No, gli fai un bel complimento perché è molto attento a quello che scrive Bobby, giustamente, quindi penso che gli stia facendo un bel complimento. Parla vicino al microfono, Alice. Sì, no, si sente appunto che i testi sono curati e molto minimalisti. Cerco di tagliare, di sfrondare, sì. Ed è veramente importante, anche insomma, bello riuscire a trasmettere un concetto con poche parole. Spero, sono che arrivi. Beh, insomma, è quello che vuoi, giusto? Certo. E l'hai suonato e cantato con molto trasporto questo pezzo qua. Ti muovevi in una certa maniera, poi aspettavi che Alessio ti cambiasse il riff, cambiasse l'accordo, si fermasse, riprendesse. Un pezzo che poteva essere allungato a dismisura senza nessun problema. Infatti con la band lo facciamo molto più lungo e diventa una cosa a questa quasi caratteristica, quasi orchestrale, perché l'altra chitarra quasi suona con un effetto che sembra quasi un violino. Esatto, sì. Quindi diventa proprio su le B, diventa proprio esplosivo. E quindi c'è questa e l'urlo. Qua si è sentito poco l'urlo. Sì, c'è questo cambio di dinamica molto molto forte questo pezzo, dal bassissimo all'altissimo. Questa caratteristica dall'altissimo al bassissimo. Questa caratteristica che ti fermavi, rallentavi e poi acceleravi, rallentavi e acceleravi per dare un continuo cambio e anche un continuo cambio a chi ti ascolta, secondo me. Sì, l'intenzione è proprio cambio di registro e un momento tranquillo, è un momento proprio di dove dovrebbe venire fuori. E sono quasi un urlo tutte lacerante. Le tue anime messe assieme, praticamente. Sì, che sono tra l'altro, insomma, schizofrenia totale. Sono 503 personalità di cui solo 7 eterosessuali. Tra Beh, insomma. Senti, Bobby Soul, com'è il tuo rapporto con i tuoi ascoltatori, insomma i tuoi fans? Ma sai, durante i concerti, intendo. Molto vicino. Noi, sei uno che parla, sì, assolutamente. Anzi, tendo ad allontanarmi 5-10 minuti dopo concerto perché sono sempre in condizioni pietose. Si vede. Per cui vado. Poi mi cambio, no, poi mi piace fare due chiacchiere, ma anche bere un bicchiere, nel senso noi abbiamo un rapporto a volte con gente che ci viene a vedere anche spesso, per cui si diventa anche amici. Sì, certo. Non c'è nessun distacco assolutamente. A proposito di concerti, quando è il vostro prossimo? So che sei in zona. Sì, domani sera siamo a Verona in questo posto che si chiama Caffè Oberdan, in via Oberdan, credo che sia nel centro della città. Anche lì è nato attraverso uno scambio di esperienze con dei musicisti, altri musicisti che sono questo gruppo di, credo che siano di Montichiari loro, provincia di Brescia. Cinema Volta, che sono un gruppo di funk. Come no, certo. Sono passati anche qui, vero? Sì, sono passati qui. Io ho partecipato anche al loro album facendo un featuring, quindi ecco. Siamo vedi, è sempre così. Sono stati anche qui a Bruno di Veneto. Bene, sono molto bravi, molto bravi. Ecco, loro sono un esempio di nuovo di un gruppo che fa funk in italiano. Sì. Assolutamente. Sì, hanno sì, fatto sì. Un disco nuovo, a quanto tu sappia. Sì, questo disco almeno è di tre mesi fa. È uscito da poco. In cui c'è anche un pezzo dove ho partecipato. Vedi, ma comunque glielo dirò, tanto che li vedo, glielo dirò senz'altro di contattarvi, no? Esattamente. Sì, ma tanto abbiamo già, noi abbiamo il nostro direttore artistico. Quindi okay. Senza problemi. Avvisiamo solo il direttore, che insomma è lui che segue questa band. Quindi ti avvicini anche a gruppi emergenti, tra parentesi, anche se loro hanno una storia. Una storia non così famosa, però hanno una storia già. Questo proprio per quel lavoro che avevo iniziato appunto con Ernesto, che mi ha dato l'opportunità di conoscere anche tanti gruppi, certo, ragazzi. Io cerco di spingere poi nel mio piccolo in quello che posso, quindi magari se riesco a trovare uno spazio per farle suonare dalle nostre parti, so che è già un aiuto così, no? per potersi fare un po' conoscere. Chiaro. Questo quindi vale anche per i Twisters. Assolutamente. Sì. Come quanti siete sul palco durante i concerti? Ma essendo modulari possiamo essere 2, 3, 4, 5, poi ma insomma mediamente con la band siamo in 5 e poi possiamo essere, ma poi facciamo un sacco. Noi abbiamo anche la caratteristica di avere quasi sempre degli ospiti. Per esempio nell'album, questo album qua, c'è Andrea Giannoni, l'armonicista di Sarzana, che è veramente un fratello per me e per Alessio, E qualche volta, per esempio, andiamo in giro io, lui e Andrea, oppure andiamo in giro io, lui e il bassista. Poi, per esempio, tutti i mercoledì sera a Genova c'è un locale dove noi suoniamo in acustico, e ogni sera, ogni mercoledì sera invitiamo sempre un ospite diverso, che può essere un flautista, una violinista, un percussionista, una cantante. Quindi a noi piace molto aprirci, allargarci e dividere l'esperienza, insomma. Cioè, che bello. Bellissimo questa. È l'idea del jazz, esatto. Praticamente l'idea del jazz, dell'improvvisazione totale. Ogni musicista, delle jam session. Sì, chiaramente ogni musicista jazz, e non soltanto jazz, anche blues, si siede, si viene sul palco e suona con voi senza nessun problema. Questo è lo spirito, dovrebbe essere così. Non sempre senza nessun problema, ma vabbè. Dovrebbe essere così lo spirito. Spesso senza nessun problema. Spesso c'è qualcosa, c'è qualche problema, qualche volta capita, può capitare, però si supera. Sì, beh, certo. Si supera, sì, un po' alla volta, si mette d'accordo poi. Diciamo che questa esperienza anche ci ha fatto essere capaci, insomma, di ogni evenienza. Il motivo è quello. Esattamente. Io credo che alla base di tutto c'è la passione per la musica. Comunque. Vi posso dire che ieri sera mi è toccato cantare un pezzo di Albano Romina Power. Però con la caratteristica che. E come faceva? Lei è Sharazan. Beh, insomma, lei. Con la caratteristica che lei faceva Albano e io Romina. Ah, sì. Perfetto. Quindi cosa avevi, la voce Francesca? No, io facevo la parte di Romina, che diceva, ma non di falsetto. No, baritonalissima. Romina ha una voce da uomo, assolutamente. Molto bassa, quindi. Allora c'è flat. Romina è una voce, esatto, flat, non ha proprio nessuna. È proprio sempre dritta. Assolutamente. È perché lei deve stare a guardare, è troppo innamorata di Albano mentre canta. Deve guardarlo. È Albano che deve fare quello figo, capito? Non fa mica. Se no. Vabbè. Ok, abbiamo citato anche Albano Romina. Cosa non mi ero lontanamente immaginato. No, per carità. Albano va in giro, fa le tournée, è nato in Bulgaria. Lui non è mai, qualche volta non è del tutto d'accordo con le mie scelte. Devo dire, che però, senso, Alessio, non sei d'accordo? No, tipo che quando Albano Romina, detto, guarda, volevo fare il duetto, facciamo Sharazan di Albano e Romina. Vabbè, ma bisogna, cioè, stai scherzando? No, perché guarda, ci divertiamo, io faccio Romina, lei fa il ballo. Vabbè, se proprio devo, capisci? Però l'avrei evitato volentieri, ecco. Però d'altronde è così. Me lo devo tenere così. Senti, adesso vi spiazzo perché mi devi fare un regalo. Io e anche Maurizio, credo anche Alice, siamo grandi appassionati di un grande cantautore italiano. Un uccellino mi ha spifferato che avete una versione di Lucio Battisti, di una canzone di Lucio Battisti, che è strepitosa. Spero di ricordarmela. Ce la fate? Ce la fate? È un po' che non la facciamo, ci ma proviamo, la facciamo volentieri. Ci proviamo. Sì. Schiaccia stop se senti che. Okay. Il vestito trasparente. Come la tua bella fronte, oh no. L'offerta del tuo seno, orgoglio dell'animale sano, oh no. Nell'aria da straniera che ti rende sempre più sicura. E l'ammirazione che scateni, che mi mette sempre un po' paura, e diventano coltelli su posizioni folli quando è sera. Donna, tu sei mia, e quando dico mia che non vai più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me. È meglio un uomo solo per tutti, anche per te, un uomo che ti ama. Tenerezza prende il posto dell'amore, oh no. Le l'emozione, il sopravvento sulla ragione. In questa confusione tu ti sei smarrita e dando a tutti niente ti sei svuotata e non riesci più a capire nemmeno di chi sei innamorata. Donna, tu sei mia, e quando dico mia, dico che non vai più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me, meglio una donna sola. Donna, tu sei mia, e quando dico mia, dico che non va più via, è meglio che rimani qui a far l'amore insieme a me, è meglio un uomo solo. Il testo di Bruno Lauzi con Lucio Battisti, Un uomo che ti ama. Ah, questo è un testo, in realtà l'ha scritto Mogol, questo, però l'ha fatta, ne ha fatto una versione meravigliosa anche Bruno Lauzi. Poteva pensare anche funky Lucio questo pezzo. Perché ma infatti, secondo me l'idea erano del gli funky... album del 76, esatto. 77, 78 a batteria contrabbasso eccetera, che sono degli album straordinariamente funky. Esattamente. È il miglior funk italiano quello la registra in America con dei musicisti neri, quegli album lì. C'è un pezzo come che so io, l'interprete di un film, sono pezzi magari minori di Lucio Battisti, sono proprio autenticamente delle gemme, gemme di funk. Ma lui ha sempre avuto questo d'anima latina in su, ma, eccetera. Ha sempre. Ma sì, ma poi anche i pezzi anni 60 sì. Erano pezzi anche molto rhythm and blues. Sì, certo. Lui, beh, lui amava, ha sempre amato quel genere là, l'ha sempre sentito. Io ho letto recentemente un libro di Montalbetti, dei Dick Montalbetti, Pietruccio, grande amico di Lucio, e Pietruccio diceva che Lucio sapeva a memoria tutti i dischi solo rhythm and blues, ne aveva un sacco, sentiva sempre rhythm and blues solo. Chiaramente poi per le solite esigenze le cose sono venute fuori dopo, ma lui ha sempre avuto quella base. Ma è si, sente, stato... si sente, si sente, si sì, sente sì. Esattamente. Complimenti, perché bella, veramente bella. C'è stato un Battisti, mi sono, ho invertito il testo nella prima strofa. Non ma è l'emozione, vabbè, è, l'emozione, comunque, insomma... è l'emozione. È il bello della diretta, Alberto. Okay. Non ti devi preoccupare assolutamente. Sì, no, adesso, visto che un testo così importante, è un peccato. Non è stato niente di straordinariamente grave. Assolutamente no. Niente di crudele. No, niente di crudele. Niente di crudele. Un po' più crudele. Crudele. Ecco, qua avete modo di sentire invece allora un altro musicista che spesso collabora con noi, secondo me un pianista molto bravo, che è appunto Matteo Minchillo. L'arrangiamento è molto minchigliano, se posso usare splendidamente minchigliano. Sì. Ci ascoltiamo allora Crudele, o devi dire qualcos'altro? Nient'altro. Ascoltiamo. Era strano giocare nell'inedito ruolo di vittima, finché per meriti e storia mi hanno offerto la parte che mi è più congeniale. Non si può superare e non si può perdonare. Ora lascio assalire il dolore perché possa scaldare di nuovo un po' il cuore. È crudele il Vangelo che ci ha reso tutti liberi e che ti sta portando via da me. della crudeltà. Con il cuore vegetariano ed il sesso vorace carnivoro, ti penso ogni giorno e ti scrivo parole nella mia irritante prosa adolescenziale. Il mio corpo è coperto di peli, le mie mani ti fanno paura, ma la mia anima riccioli e vestaglia di seta non passa dal buco della serratura. E tanto continuo a sentire il tuo dolore, anche se non riesco quasi più a respirare. Portando via da me. Oh, titta, titta, titta mia ballerina, titta, è più crudele della crudeltà. SMS 346 23 20 033. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Sì, con Alessio parlavamo di questo pezzo, chiaramente, parlavamo anche di un altro progetto che non abbiamo citato prima, che tu hai, La Decima Vittima. Che abbiamo in comune. Esatto, sì, adesso ne parliamo un pochettino, che è molto interessante. Beh, forse della Decima Vittima te ne può parlare Alessio, parla mio. Sì, sì. Tanto poi mi interrompe, dice sempre così, poi mi interrompe perché vuol parlare lui. No. Comunque, insomma, Decima Vittima è un progetto che è nato 3-4 anni fa ormai, e fra contesti scomodi e tutto, insomma, nasce dall'interazione fra poesia e musica. Quindi noi avevamo, io e Alberto Valgimigli, che è il bassista e mente del progetto, avevamo precedentemente un altro progetto di musica, di reading su musiche originali. Dovevamo fare una cosa al Festival Internazionale della Poesia di Genova e ci mancava il frontman. Alberto, l'altro, il bassista, conosceva Alberto il cantante, dice: io lo chiedo a Bobby. E Bobby, come al solito, si è dato grande disponibilità. Da lì è partito e niente, abbiamo fatto due dischi. Uno, prima ci chiamavamo Contesti Scomodi, e il primo disco era musiche originali con su testi invece del poeta della Beat Generation, Ferlinghetti eccetera, eccetera. E invece il secondo sono testi un po' di Bobby. Ah, c'era anche il poeta genovese Franco Cadoni nel primo disco. Come Decima Vittima, invece, sono di Bobby, sono di Alberto, e le musiche sono sempre nostre. Abbiamo mantenuto questa vena ironica, surreale, psichedelica. Anche sì, perché Alberto Vagimini, oltre a essere musicista, è anche un disegnatore. Quindi crea questo mondo molto surreale, questo tratto in bianco e nero di questi strani animali che lui inventa, queste situazioni davvero molto surreali, oniriche, e con un'ironia molto sottile, molto, oserei dire, molto ligure anche, sì, un po' cattivella anche, perché noi liguri abbiamo questo sarcasmo sempre che ci esce fuori, così anche quando lo vuoi trattenere ti esce fuori. Beh, noi abbiamo pescato molto dalla Liguria, eh? Abbiamo avuto diversi artisti liguri qua, eh? Da Chiara Ragnini. Ah, la Chiara è venuta qua. Sì, sì, sì, sì. Poi Antonio Clemente. Certo, certo. Poi chi c'è? Maurizio, aiutami anche tu. C'è il pianista. Ah, sì, Alberto Lupi Musso. Certo, certo. Li conosco tutti. So che dico, Zazza. Zazza. Zazza Esposito, grandissimo, grandissimo. Matteo Conta. Matteo Conta, forse mi manca. Cosa ti manca? È venuto anche lui. Un cantautore? Sì, un cantautore, sempre nel giro di Zazza. Di Zazza. Magari è un bel giro. Zero Cover, lui organizza. Karen Ciaccia. Karen Ciaccia. Anche quella di Genova. Mi manca. Andrea Celeste. Andrea Celeste, certo. Cioè, voglio dire, vedi, abbiamo. Beh, insomma, siete molto, molto ospitali nei nostri confronti. In Liguria ci conoscono bene come radio. Bene, bene. Allora, adesso facciamo qualcosa. Ti sei raffreddato? Ti sei. Sì, sì, sì. Sei bene, però la voce è ancora calda. Spero di sì. Sì, spero di sì. Cosa ci fai ascoltare adesso? Beh, io vorrei fare. Magari spero che un po' Alice? La sappia. Sì, sì, Alice, sì, sì, sì. Questa di B.B. King. Ah, bene, bene. Ah, la fai con Alice? Se le fa piacere. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì, ci fa piacere. Sì, no, sì. È lì che non aspettate. Mi fa piacere sentirla. Dai, dai, la canti anche tu. Vabbè, dai, un po'. Se. Sì, sì, sì, si dice che lei, sì, tranquillo. Vero Alice? Bruce gone. Bruce gone away. Let's go on, baby. The thrill is gone away. You know you've done me wrong. You'll be sorry someday. The thrill is gone. The thrill is gonna wait for me. Hey. The thrill is gonna wait for me. I know I still live on. So long. from your spell. All I can do is wish you well, 'cause the thriller's gone, gone. Bravissimo. Un critico ha scritto i meandri ovattati di B.B. King, ma non mi sembrava proprio un meandro ovattato questo qua. Beh, lui ci mette una grinta a cantare questa ma canzone. È un meandro. Blood, sweat and tears stasera, cioè in questo momento. Blood, sweat and tears, sangue, sudore e lacrime, è quello. È più o meno, più o meno, più o meno così. È anche un po' la nostra vita, sai. Sì. B.B. King, che viene spesso e volentieri da noi, ama particolarmente calcari per i coscenici italici. Sì, penso che ami anche molto la nostra cucina. Molto, sì, quello è vero. Sì, sì. La nostra cucina, verissimo. Beh, ha sette vite però, bisogna dirlo. Beh, un... è straordinario. Quante moglie ha avuto? 17. Ah sì, un sacco, un sacco di... 93 figli. Sì, diciamo che vita ne ha. Però, però al blues, alla chitarra, al blues, sì, c'è sì, poco sì, da fare. Beh, è un capo assoluto. Alice, non te la sei sentita di cantarla? No, sinceramente mi piace anche godermi lo spettacolo. Beh, però adesso 30 secondi assieme li fate, dai. No, no, no. Ma non magari, magari un qualche blues, magari... Cosa un qualche blues. Un qualche blues. Quello che piace a me, Alice. No, c'è una proposta lui, vediamo se... No, no, io dicevo la facilissima, però te non piace Sweet Home Chicago, se la vuoi fare. No, dai. Vedi, no, da cantante... Siamo tutti pietà, d'accordo, siamo pietà, tutti d'accordo. Però... Per pietà, no. No, io direi di no. Fate quello che volete, guarda, è l'improvvisazione. No, pure... Che adesso ci pensa. Beh, possiamo improvvisare su un giro di blues, no? Sì, che tonalità. La va bene. Potresti accenderla a te questa, però. Rub me, baby. Rub me whole now. Rock me, baby. Rock me, honey. You know you rock me, baby. You know how you make me feel. rhyming, babe. I say you're rhyming, babe. Oh, you're rhyming, babe. You rhyme me all night long. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Pazzeschi, pazzeschi, bravissimi. Improvvisamente fatta qui, cioè improvvisata, meglio dire, insomma, fatta in maniera veramente splendida. Devo dire la verità che io non l'avevo mai cantata. No, cioè, che quella no, che la canta canto lui, io, è quella che canta lui. Ecco. Non so neanche il testo, cioè, non so cosa ho detto. Quando si hanno artisti così, quando queste, chiamiamole come a livello jazz, insomma, jam session, così vocali, sarebbe stare qui tutta la notte, insomma, cioè, voglio dire, voi penso che avete una enorme discografia, diciamo, da scaletta, chiamiamola come volete, di canzoni che potete proporre. Sì, potete attingere da un pozzo senza fondo, sì, insomma, sì, quasi. Possiamo andare avanti anche svariate. No, perché ore, abbiamo sì, appena parlato io e Maurizio che fino alle 4. Il problema è che poi finisce la voce. Vabbè, fino alle 4 di domani mattina sei qua, va bene? Sì, sì, sì, assolutamente. Sì. Anche Alice. Sì. E possiamo dire il titolo adesso di questo pezzo? Rock Me Baby. Perfetto, ok. Che canti anche tu. In realtà io non accompagnavo Rock Me Baby, è che Bobby che è partito. Non so perché Rock Me Baby fa diverso. Perché fa... Sì, era un po'. Sì. Vabbè, lo facciamo anche così, scusa. Facciamo così, dai. Questa è la carta lì. Che bello. Questa era Rock Me Baby. Questa era così. Era così. Ma che bello vedervi contenti, insomma. Qui stiamo facendo musica a go go, Stiamo andando senza nessun preciso itinerario. Io rubo qualche secondo a Bobby perché voglio fare un po' di pubblicità ad Alice, visto che è venuta a trovarci. E lei è in finale per un contest che si effettuerà giovedì della settimana prossima. Sì. Vuoi parlarcene tu? Sì, saremo a Pordenone e si tratta di un contest dedicato alla musica jazz, blues, fusion, quindi insomma un ambito vicino al nostro sound, e abbiamo passato la prima selezione, speriamo insomma di poter continuare. Bocca al lupo. Buona fortuna. Grazie. Ricordate quindi, segnatevi il nome, Alice Violato e The Twisters, che sono all'ascolto tra l'altro. Bene, che li salutiamo. Che li salutiamo. Va bene, sono le 23. Cosa dite? Vogliamo fare sentire una canzone da disco e poi ci salutiamo? Facciamo un finale però dal vivo, chiaramente. Beh, certo. Assolutamente. Quello che volete, anche una jam session trasversale, quello che volete. Come volete. Adesso facciamo un altro pezzo da disco. Ah, però. Pezzo da disco. Sì, okay, un momento, okay. Sentiamo un pezzo da disco. Sì, hai scelto la canzone Bobby? Ah, sì, sì, no, questa. Perché c'è un aneddoto su questa canzone. In realtà è un pezzo del mio disco che canta quasi completamente una cantante che è anglo-tunisina, si chiama Aziza Ben Hamadi. Aziza, una cantante esplosiva, che ha fatto questo pezzo, insomma, un po' sboccato in inglese, per fortuna in inglese, quindi io ho tradotto Bobby Soul Wood Funk, Do You Think You Are, però in realtà dice un'altra cosa. Tutto questo perché era ospite di un nostro concerto a Genova. Insomma, forse aveva, era un po' sopra le righe quella sera lì. Poi un attimino sopra, era un attimino sopra le righe, quindi insomma non è, è, c'è stato un momento che abbiamo dovuto sentire, per piacere, per adesso. Il giorno dopo era un po' arrabbiatella per questa cosa qua, ha detto io voglio venire nel tuo studio perché voglio cantare, mi ha detto, e ho detto vabbè vieni. Avevo questa questa roba dove sinceramente io non sapevo ancora che canzone fare sopra quel pezzo lì, ho detto dai, qua c'è questa base, vai. E secondo me ha tirato fuori questa cosa molto istintiva in cui si scaglia in una maniera veramente virulenta contro di me. E ho detto perfetto, questo fa finire nel nostro disco. Bobby Soul, Who the Funk Do You Think You Are? About me, shit, you don't even ask about me, Bobby Soul, you don't even give a fuck about me, who the fuck do you think you are, you think that, what, you think you're some kind of fucking superstar, who the fuck do you think you are? To the moon and brought is me. Yeah. You don't even ask about me. Shit, you don't even ask about me. Bobby Soul, you don't even give a fuck about me. Who the fuck do you think you are? Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Due ore volate via, è proprio il caso di dirlo perché qui sono già le 23.07.08 in questo istante, di oggi giovedì 16 maggio 2013, con Agostino, con Maurizio, ma soprattutto con Bob Soul and Blind Bonobos, che poi non ti ho ancora chiesto il perché di questo nome. Dunque, i bonobo sono delle scimmiette. Uh-huh. Sono delle scimmiette. Sono le scimmiette più democratiche del mondo. Sì, è l'animale più democratico del mondo. È un sistema, la loro società è un sistema dove non esiste il capo, non esiste. Sono un gruppo di scimmiette che praticano anche, tra l'altro, delle cose simpatiche. Meglio che lo diciamo. Esattamente. Stasera, meglio di no. C'era simpatica questa loro. Sono stati anche evocati. Abbiamo fatto una canzone anche Caparezza, su, sì. Ho scoperto dopo. Sì. Sui, sono, non vogliono avere dei capi, quindi sono tutti fratelli e sorelle queste scimmiette, quindi ci piace. È realmente la società più democratica ed è davvero così, studiata da stavo dicendo gli antropologi, no. Ma no, insomma, dagli animalisti, neanche quella parola giusta. Comunque, da. Blind abbiamo aggiunto un classico che richiama senz'altro il blues, no? Certo. Quindi, oltre a essere dei bonobi, siamo anche. Non vediamo niente. E poi Blind, appunto, Blind Lemon Jarvis, il tipico un omaggio in questo caso al vecchio blues. Come sentite proprio il suono del blues già con quest'altra chitarra che c'ha Alessio? Provala. È il dobro. Mamma che atmosfera, Maurizio. È il dobro. Ah, mamma. Che atmosfera, ragazzi. Io starei qui ancora. Antonella vi ringrazio della grandissima puntata, davvero. Dice un abbraccio a tutti e grazie per le emozioni che ci avete regalato, insomma. Però Antonella, non chiudere perché c'è l'ultimo emozionante duetto, ve lo posso già anticipare, tra questi due mostri sacri del blues, che permettetemi di dirvi queste cose. Però prima di chiudere, i tuoi dati, Alberto, cioè se qualcuno volesse contattarti per eventuali serate, il tuo sito, dove si può trovare il tuo disco e quant'altro. Allora, è tutto facilmente linkabile dal sito www.bobbysoul.com. Di lì c'è direttamente, si accede a Facebook, a YouTube, la mia mail, tutto quanto. Quindi basta andare nella home page, ci sono tutte le. Se vuoi comunque dirlo, puoi dirlo. Se vuoi dire la mail, comunque. Ah, la mail è info@bobbysoul.com. Quindi molto è semplice. Sì, molto semplice. Si so, c'è tutto, è tutto pubblico. E quindi lì poi possono contattarti per avere anche il disco? Per avere il disco, il disco si trova anche negli store digitali e anche fisici su internet. Si trova facilmente. C'è anche qualche negozio, sparuto negozio che lo distribuisce. Qualche eroe, sì. Lo vende anche proprio fisicamente. Il prossimo concerto? Allora, a parte quello di domani, che lo ricordiamo, che è a Verona, Caffè Oberdan, 21:30, centro di Verona. Poi torniamo in Liguria. Sabato siamo a Finalborgo, che è un borgo bellissimo sopra Finale Ligure, nella provincia di Savona. E domenica siamo a Torino, a Rosso di Sera. Rosso di Sera è un famoso locale. Sì, di grandi amici, grandi amici. E quindi siete sempre impegnati, insomma. Ma finché noi siamo impegnati stiamo bene, quando dobbiamo stare a casa che cominciamo a work your fingers to the bone. Senti, il prossimo disco è in cantiere? Eh sì, perché questo disco di cover, insomma, con qualche inedito di cover, comunque dai, i tre pezzi, le tre bonus track saranno diciamo il lavoro sul quale si depennerà poi il disco prossimo, che lo registriamo nel 2014, ad aprile 2014, negli studi di Riserva Sonora, quindi con la band, un disco con la band di materiale tutto inedito. Passi diciamo. Per di qua poi? Eh beh, ben volentieri. Vi aspettiamo. Certo. Va Vabbè, Alice, due parole anche per te, grazie di essere venuta, ovviamente, di aver accettato l'invito. Grazie a te Agostino, è stato un piacere anche questa sera. Ho visto e che ti sei come divertito. Sempre mi sono divertito, ho conosciuto delle persone splendide, quindi grazie ragazzi. Grazie a te Alice, grazie a te. Maurizio, le ultime considerazioni tue? La considerazione è molto semplice: quando si suona, il blues, che è il suono dell'anima, la musica dell'anima, non ci sono considerazioni da fare, si suona e basta. E basta. E bravo blues. Maurizio. Va bene, e allora noi chiudiamo qui ampiamente, siamo andati oltre, ma come vi avevo detto prima non c'è Renato Ferro con la sua heavy metal né hard rock, quindi abbiamo usufruito di questo spazio in più per dar modo a di proporre una musica di Bobby Soul e Blind Bonobos e ancora di più per farli sentire anche questa splendida simpatia che emanano dalle loro voci, dalla loro chitarra e dal Dobro, che adesso tra poco sentiremo dal suono di Alessio Caorsi, che ringrazio. Alessio, grazie a voi, siete stati benissimo davvero. Alberto, un grazie particolare a te, noi ci siamo sentiti molto spesso in questi giorni. Grazie Agostino, un piacere molto grande, penso grazie. Che nascerà una bella amicizia. Ma è già nata, non ti preoccupare. Grazie anche ad Antonella Gucci. Io però, se mi permetti, volevo ringraziare anche la Paola, che ci sta facendo le foto. Certo. Ti sei portato la fotografa ufficiale. E poi la mia amica grazie. Qui, la Yarelis, che mi ha fatto compagnia qui in regia, ma insomma vi ha ascoltato perché ama il blues. Insomma. Bene, bene, molto grazie bene. Anche a lei. E ci salutiamo con che canzone? La canzone di Muddy Waters che si chiama I Can't Be Satisfied. Ci avevano sempre. Quindi non erano mai contenti. Mai, neanche noi. Senza questo è il blues, anche. No? Allora, i programmi di Blue Radio Veneto continuano, ovviamente. Io vi do l'appuntamento a giovedì della settimana prossima con una cantautrice romana, si chiama per l'appunto Francesca Romana Fabris, che verrà a presentarci il suo disco, tra l'altro una cantautrice molto ma molto brava, che ho avuto modo di conoscere quando sono stato al Festival di Sanremo. È veramente molto brava. Quindi l'appuntamento è giovedì alle ore 21. Maurizio, grazie ancora anche a te. Grazie a te Agostino e ai nostri ascoltatori. Io vi do l'appuntamento a martedì prossimo con una band di Reggio Emilia, molto interessante, con Flavio chiaramente, che condurrà il programma. Ok. Un grazie ancora ad Antonella, come dicevo prima, perché ci ha dato modo di conoscerci e di farvi conoscere al nostro pubblico. Ciao ragazzi e ancora grazie di essere passati per Blue. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Se devi salutare qualcuno puoi farlo. No, tutti gli ascoltatori. Tutti. Ok, prego. Satisfied, I just can't get.